Euroreportage. Nell'Ungheria di Orban, zar del boom e dell'eurorealismo, di Raffaella Calandra. Intorno al nuovo stadio, la faccia del vecchio e nuovo zar d'Ungheria è ancora su tutti i cartelloni, a Budapest come a Felkszut, la sua città natale. Nel paese di Viktor Orban, infatti, riconfermato primo ministro con la schiacciante maggioranza dei 2/3, si lavora nei cantieri, si riduce il disavanzo calato sotto il 3% del PIL e alle richieste di Bruxelles si risponde all'insegna di quello che tutti qui chiamano l'euro-realismo. Prendere il buono dall'Unione, cioè contrastare il resto, perché, come ricorda questa giovane coppia a spasso coi bimbi nel mercatino della domenica, l'Ungheria ora sta crescendo, il PIL dovrebbe salire del 2,2% quest'anno e questo è merito anche degli accordi con gruppi internazionali, ma pure, ripetono da Fidesz, il partito del Premier, della linea dura del governo, portata avanti con ripetuti no a Bruxelles e continui richiami all'orgoglio nazionale. Siamo ungheresi, è l'espressione ripetuta più spesso nel regno di Orban, che ha traghettato il paese fuori dal rischio crack e alla vigilia del voto del 6 aprile ha cambiato in suo favore la legge elettorale, solo ultimo provvedimento, dopo le norme sulla stampa e la modifica della Costituzione, motivo di attacchi da mezzo mondo, Europa compresa. Ma avrebbe vinto comunque, spiega, numeri alla mano, la professoressa Fanny Mandak dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Budapest. E proprio per questo nuovo sistema elettorale, il governo Orban ha ricevuto parecchie critiche, sia interne sia dall'estero. Si deve notare che anche con la vecchia legge elettorale, il Fidesz avrebbe vinto lo stesso. Però è anche vero che non avrebbe ottenuto la maggioranza di 2/3. E i partiti dell'opposizione, dei partiti di sinistra, che hanno partecipato a queste elezioni in coalizione, hanno ottenuto solo 250.000 voti in più. E i voti persi dalla sinistra sono andati a finire anche al movimento Jobbik. Sì, esatto, al movimento Jobbik, che è un partito estrema destra. Però è importante notare anche il fatto che il Jobbik è stato rafforzato, ma diciamo a livello nazionale, e non è stato rafforzato nel modo tale di poter ottenere un parlamentare in seggio uninominale. E lo spettro della destra estrema di Jobbik, antisemita nel cuore, a dispetto delle ultime dichiarazioni ufficiali dei rappresentanti, ha aiutato Orban a presentarsi al mondo come l'unico baluardo contro l'avanzata di un altro movimento fortemente euroscettico che all'insegna della protesta, del contrasto agli zingari e dei proclami contro le banche sta conquistando il sostegno pure dei più giovani, aiutato dalla debolezza dell'opposizione. Io difendo l'Ungheria. Noi cerchiamo di essere europei, ma non mi sento europeo. Né mi piace il governo di Orban, perché ruba un sacco di soldi alla mia famiglia. Sono tutti uguali i partiti che c'erano. Io sostengo Jobbik perché la nostra storia, la storia ungherese, è importante e va difesa. E noi dobbiamo restare ungheresi anche all'estero. Quindi l'Europa potrebbe andar bene solo se siamo trattati come gli altri, non come gli ultimi. Lasciati i viali alberati e i decori liberti, è quando le sinuose forme dell'Art Nouveau e i colori del passato asburgico cedono il passo a caseggiate dalla geometria comunista che si comincia ad incontrare qua e là il germe della protesta che ha spinto Jobbik fino al 20% e ai 23 seggi in Parlamento, ma non a quel trionfo previsto alla vigilia. Banche, non avrete mai i miei soldi, recita uno dei più diffusi manifesti elettorali del movimento che spaventa l'Unione Europea, ma che su questo punto ha di fatto ricalcato e portato all'estremo il primo cavallo di battaglia di Orban, quella tassa che ha trasformato l'Ungheria, per dirla con le parole di Enrico Cucchiani, già CEO di Intesa, presente in terra magiara con la SIB, insieme ad Unicredit, ha trasformato l'Ungheria, dicevamo, da paradiso in incubo. Un incubo per gli istituti di credito che non può però ancora finire, dice senza mezzi termini Enrico Ghiori, sottosegretario agli esteri con delega agli affari europei. Quando noi abbiamo preso il governo 4 anni fa, quello che abbiamo ereditato era quasi un fallimento, cioè un deficit quasi ufficialmente vicino a 5, inufficialmente vicino a 7%. Era un'economia rovinata a causa dell'accordo con il Fondo Monetario. In questo paese la gente si è tolta già il salario del tredicesimo pago. Questo voleva dire che più carga sulla spalla della gente non si poteva mettere più, e neanche volevamo. Tutti che fanno parte dell'economia ungherese devono prendere parte anche in questo reparto della carga. Così abbiamo messo, questo è vero, una carga più grande, c'è una tassa sulla spalle di quelli settori dell'economia che prima, durante 15 anni, hanno accumulato dei profitti grandi. Questi settori erano il settore finanziario, il settore energetico, telecomunicazione e anche commercio piccolo. Adesso ancora non siamo in una situazione che potremmo non avere bisogno dei loro contributi, cioè la tassa bancaria resterà. Adesso si parla con tutti i settori, si parla anche con il settore finanziario, vediamo, il dialogo è molto importante. L'intenzione non era mai andare queste società stranieri, perché la maggior banca in Ungheria è una banca ungherese, e il maggior contributo l'hanno pagato loro, cioè non le banche straniere, ma tutte le banche grandi dovevano far parte di questo reparto di questa, diciamo, carga difficile. Così anche nell'energia, la società più grande è una società ungherese, ma c'è una presenza forte straniera in questi settori, non c'è dubbio, questo è un fatto, ma non c'era né un elemento discriminatorio in questa politica. La politica era molto semplice: quelli che approfittavano molto dell'economia ungherese prima, adesso dovevano contribuire un po' di più. Quindi non avete temuto che in qualche modo questa politica potesse allontanare investitori stranieri? È stato un rischio che avete voluto correre? Il rischio l'abbiamo corso, è vero, ma se guardiamo le cifre vediamo che molte imprese hanno venuto in questi 4 anni, e grossi stabilimenti, soprattutto industriali, si sono fatti in questo paese. Abbiamo una politica, è vero, che si concentra più sull'attiro delle imprese nel settore produttivo. Pensiamo che in Europa c'è bisogno dell'industria, non pensiamo che solo il settore dei servizi o il terzo settore basta per l'economia europea, perché l'industria genera più posti di lavoro, l'industria resta più facilmente, se si stabilisce allora è più difficile, naturalmente è possibile, ma pensiamo che in Europa è importante che la produzione resti qua. Dall'opposizione accusano Orban di una gestione mafiosa del potere. Di sicuro ora però l'atmosfera di Budapest riflette la nuova situazione dell'Ungheria, e tra i bar della Movida, nel ghetto, tra le vetrine di Vita Ucca, oltre ai tantissimi turisti, incontri visi di ungheresi più fiduciosi verso il futuro, anche se con la povertà convive tuttora almeno un terzo del paese. Ma è l'inversione di rotta che ha trasmesso ottimismo e ha aumentato il sostegno verso il governo, che con accordi ha aperto le porte a investimenti stranieri importanti, da Audi, Mercedes fino a Siemens. E qui in terra magiara stanno spostando la produzione anche molti italiani che avevano portato gli stabilimenti in Romania, e non sono pochi i frontalieri che dopo anni di pendolarismo dal nord-est hanno trasferito qui definitivamente famiglia e ditta, come racconta l'ambasciatrice Maria Assunta. Cili. Abbiamo notato due fenomeni. Il primo è quello dell'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero di un numero di connazionali che sono stati tradizionalmente in bilico tra l'Italia e l'Ungheria e quindi continuavano ad essere, come dire, pendolari. Ecco, molti di loro hanno stabilito definitivamente la propria residenza in Ungheria. Diciamo che è l'economia, la spinta fondamentale di molti italiani a stabilirsi qui. Questo è confermato anche dal secondo fenomeno, quello della frequente apertura di nuove imprese italiane in Ungheria. Registrare ogni anno 100 aziende italiane che si aprono è un indicatore significativo dell'attrazione. L'eurorealismo di Orban sembra piacere agli imprenditori, anche se nel precedente mandato è stato causa di ripetuti litigi con Bruxelles, che ora ha due richieste soprattutto per l'Ungheria, indicate dal presidente della Commissione José Barroso, le ricorda il rappresentante della Commissione a Budapest, Tamás Such. President Barroso congratulated to Prime Minister Orbán. Il presidente Barroso si è congratulato con Orbán non appena era chiaro che il suo partito, Fidesz, avesse vinto le elezioni. Fidesz fa parte del PPE, del Partito Popolare Europeo, e nella sua lettera era indicato molto chiaramente che noi ci aspettiamo che il governo continui il suo lavoro, prima di tutto nel solco degli obiettivi della strategia Europa 2020 e poi rinforzando la strategia della governance economica. Queste sono le due priorità per la Commissione Europea. Consolidare l'equilibrio con Bruxelles e far fare un ulteriore scatto in avanti al suo paese. Questa è l'attuale sfida del riconfermato zar d'Ungheria, che con la crisi ucraina alle porte diventa uno snodo ancor più strategico per l'intera Unione Europea davanti all'avanzata della Russia di Putin. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.